Senza frontiere, come tutti i lunedì alle 14 su Radio Wombat, appunto, che potete ascoltare in streaming a wombat.blogs.org e in AM 1359, prevalentemente nella zona di Firenze. Per notizie su Radio Wombat, oltre ad ascoltarla in streaming, al sito, al blogs, wombat.noblogs.org, in cui ci sono il palinsesto, le podcast e tutte le notizie riguardanti le trasmissioni della radio. Senza frontiere, appunto, tutti i lunedì alle 14 e in replica il mercoledì alle 17 e il venerdì alle 9 la mattina. Puntata 28, che è la prima di due puntate riguardanti la Palestina. E quindi siamo qui con un compagno del cantiere Camillo Selfrego, Scarpacento, che proprio alcune settimane fa ha fatto un viaggio nei territori occupati. Sì, siamo stati in Cisgiordania una settimana, grazie a uno dei viaggi di conoscenza che tutti gli anni vengono organizzati dall'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese di Firenze. Il viaggio appunto è durato una settimana, si è svolto un po' così. Allora, abbiamo fatto base a Beit Sahur. Beit Sahur è un sobborgo di Betlemme, è una cittadina famosa per essere stata durante la prima intifada un centro dove la conflittualità era molto alta e dove le organizzazioni di sinistra come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina erano riusciti a creare dei comitati popolari e di diciamo auto-organizzazione appunto popolari a vari livelli proprio durante il periodo della prima intifada. Da lì ci siamo spostati ogni giorno in una località differente per appunto fare quello che è un viaggio di conoscenza, quindi diciamo si cerca di vedere più cose possibili e si cerca di appunto di avere un Le guide locali, ecco, cercano di darci un'infarinatura di quello che è il conflitto israelo-palestinese e di quella che è la vita quotidiana sotto l'occupazione sionista. Il primo giorno siamo stati a Betlemme, ovviamente. A Betlemme la composizione demografica è totalmente cambiata dopo il 48 e dopo il 67. C'era una forte comunità cristiana, una maggioranza cristiana, cosa che non è più così, viste appunto le ondate di profughi musulmani appunto arrivate a Betlemme sia nel 48 con la Nakba, sia nel 67 con la guerra dei 6 giorni. A Betlemme siamo subito entrati in contatto visivo con il muro di separazione che passa anche in mezzo alla città e abbiamo visitato un campo profughi, il campo profughi di Aida, che è uno dei più diciamo famosi in Palestina perché si trova vicino ad una base militare. Ma in questi spostamenti avete avuto difficoltà? Ci sono i checkpoint? Allora, in realtà no, nel senso che abbiamo passato ovviamente tanti checkpoint, sia per le strade, sia a Hebron, invece a piedi, soprattutto a Hebron, che è una città di cui magari parliamo più tardi, che ha molti checkpoint, per appunto proprio nelle strade della città. Però non ci hanno mai fermato, perché appunto l'organizzazione, diciamo, era molto vispa da questo punto di vista e si utilizzava a seconda di dove dovevamo andare dei mezzi, con targa, o palestinese se non c'era bisogno di prendere le autostrade, solo per ebrei israeliani. Oppure appunto mezzi con targa israeliana e poi diciamo si può dire che in in un periodo di relativa calma, infatti forse magari dopo ne parliamo, in un periodo di relativa calma non si va tanto a dar noia agli occidentali, in particolare se non andiamo a fare azioni di interposizione o cose del genere, ecco. Mentre invece poi certi spostamenti ci sono stati preclusi proprio per quello che succedeva, per esempio. Il giorno dopo, il secondo giorno, siamo andati nella Valle del Giordano a visitare Gerico ed alcune comunità beduine. A un certo punto ci è toccato tornare indietro, girare il pulmino e tornare indietro perché c'erano delle case in demolizione, c'erano i bulldozer, c'era l'esercito e quindi era non tanto rischioso per la nostra incolumità quanto per la perdita di tempo che avrebbe provocato il farsi fermare dall'esercito, e infatti mi ricordo che eravamo appunto in una comunità beduina, aveva subito varie demolizioni, vari tipi di vessazioni appunto dell'occupazione, e dalla cima di questa collina vedevamo una jeep dell'esercito israeliano che ha tenuto per un'ora buona un'altra macchina di non sappiamo chi, comunque l'hanno tenuti per una buona ora. Quindi insomma, le limitazioni, così come il giorno in cui siamo andati a Nablus, dopo la visita della città vecchia di Nablus, dovevamo andare a visitare le rovine di Sebasta o Sabasta, che dir si voglia, e non ci siamo potuti andare perché a un checkpoint lungo la strada avevano ucciso un palestinese. Quindi, diciamo, non abbiamo vissuto noi particolari arroganze da parte dell'esercito, ma comunque sia, insomma, si vive bene come dire, i checkpoint, insomma, l'arroganza sionista e le difficoltà che un palestinese può vivere anche solo negli spostamenti, appunto, per andare a lavorare o nel campo o a trovare dei parenti, eccetera, eccetera. E niente, allora, come ho detto, sì, poi siamo andati nella Valle del Giordano. La Valle del Giordano, di quella giornata in particolare, ricordiamo la visita di ritorno alla comunità di Khan al-Ahmar. Khan al-Ahmar è una comunità beduina che in realtà sta molto vicino a Gerusalemme ed è sotto sgombero, a rischio di demolizione da tanto tempo. E anche di questo magari ne parliamo più in dettaglio dopo, perché appunto a livello di auto-organizzazione popolare, di resistenza ai progetti che vengono fatti sull'area intorno a Gerusalemme, quindi ai progetti di giudaizzazione di Gerusalemme, come la chiamano loro, eh. E la Valle del Giordano è uno dei posti in dove si nota di più l'impatto anche sul paesaggio dell'occupazione. È una valle che era appunto cosparsa di comunità beduine e di anche aree verdi, perché insomma, nonostante quello che si possa pensare, un po' d'acqua c'è, sia quella del Giordano sia di altre sorgenti secondarie, sorgenti che sono completamente sequestrate dalla Mekorot, dalla compagnia israeliana a cui il governo Sharon, mi sembra, ha venduto l'appalto appunto per la totale gestione delle acque nei territori occupati a $1, una roba del genere. E quindi i contadini e i beduini che hanno sempre potuto approfittare della sorgente appunto alla quale abitano accanto da secoli, invece adesso sono costretti a comprarla e a prezzo più che salato. Ci sono le pompe recintate, sorvegliate appunto dall'esercito. Il Giordano è secco ormai perché viene drenata tutta l'acqua verso Israele, e quindi basta vederlo dall'alto, dalle alture di Gerico, dove siamo andati per, diciamo, visita turistica, ecco, prettamente turistica, al Monte delle Tentazioni. Si vede benissimo che la parte, diciamo, che dovrebbe essere palestinese, in realtà è tutta area C, quindi area sotto totale controllo civile e militare israeliano, è praticamente desertica, fatta eccezione per le colonie agricole israeliane, mentre invece dalla parte giordana è molto più verde. Poi siamo andati a Ramallah, ci hanno portato a Ramallah. Ramallah è, diciamo, lo possiamo definire una capitale amministrativa della Cisgiordania. È una città dove appunto ha sede l'Autorità Nazionale Palestinese, tutti i ministeri vari. Ed è una città molto strana perché ci sono caffè alla moda, ci sono macchine di lusso, e quindi si vede un tentativo, diciamo, come si può dire, degli apparati governativi, della burocrazia, dei dipendenti statali di fatto, di vivere un po' all'occidentale. È una città visibilmente drogata dagli aiuti internazionali, dove appunto si vive in maniera totalmente differente dal resto della Palestina, della Cisgiordania in particolare. E a Ramallah però comunque, al di là di questo, è interessante appunto anche per vedere questo squilibrio. Tra l'altro gli aiuti, a quanto dice Trump, ma qualche passo l'ha già fatto, sono stati già tagliati di brutto, e quindi qui vedremo come un po' come si riorganizzeranno e se riusciranno a reggere, diciamo, questo sistema che si sono un po' creati negli ultimi anni, in cui appunto tramite questi aiuti internazionali si riesce a mantenere una stabilità, una stabilità nel senso in cui si danno, cioè, stipendio a centinaia, migliaia di famiglie, e quindi si tiene anche un po', diciamo, sotto segno la conflittualità, ecco. E quindi anche questa sarà una delle cose da vedere in futuro, come andrà, se cambierà o meno. E a Ramallah ci sono anche, però ci sono organizzazioni, sede di organizzazioni, per esempio ad Amer, l'organizzazione in sostegno ai prigionieri politici, con cui si è collaborato più volte anche come cantiere e come fronte Palestina. Il giorno successivo siamo andati a Gerusalemme, città divisa fra i quartieri occidentali ebraici e orientali arabi, invece palestinesi. E abbiamo visitato la città vecchia, che è stupenda, è un reticolo di vicoli, direi, medievali, piccole corti, veramente, veramente molto, molto bella. Abbiamo visitato la spianata delle moschee, il muro del pianto, e abbiamo visitato anche il paesino di Lifta prima di arrivare a Gerusalemme, che è proprio appunto un sobborgo di Gerusalemme ed è uno degli esempi più tremendi di quello che è stata la pulizia etnica del 48. È un paese che era visibilmente, si vede benissimo, era un paese ricco, c'era delle belle case con gli archi, un sistema idrico molto ingegnoso per portare l'acqua appunto ai campi coltivati, ed è totalmente devastato, ovviamente spopolato, vi hanno accesso solo gli ebrei, che vanno a farci le abluzioni e vari altri passatempi anche meno edificanti e meno religiosi, bivaccano nelle case, sono queste appunto case che prima erano dei palestinesi, sono ricoperte di graffiti e di graffiti offensivi appunto nei riguardi degli arabi, dei palestinesi, c'è immondizia. E ci faceva notare la guida come queste vecchie case col tetto a volta venivano bucate nel soffitto proprio per rendere impossibile il ritorno dei profughi, esatto. Ci sentiamo un pezzo musicale, Sharia Mansour, Call Hand on the Bahat. دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا بإيمانكم ستشفيون عداء صهيونية الإرهابية عنصرية الفاشلة يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار وحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال ورد التجاهل ستين عام تحشروا هالشعب تتآمروا عالشعب يتقاتلوا هالشعب يتمثلوا في هالشعب والشعب شعب والمحتل محتل قام العالم سوا بين هالدم أما عالم مختل بس التاريخ ما بيشفي التاريخ بمحي وانا شايف التاريخ طريق برك عيون شعبي يقولوا لنا قرار أمم احترم بنحترم يقولوا لهم قرار أممي أم يحزم بالزبالة تأخذوا هوش سمعها رمم قيادات جبانة عايشة بعز والشعوب دايما عايشة بهانة هو عنده أسلحة للزوال وإحنا عنا أسلحة للبقاء عنا حجار عنقودية عنا إرادة نووية وعنا عقول مسلحة بقرار شامل قرار شامل ينادي بالحرية تسلم لنصابيعهم على الفرد يا ابن العرة كلنا غزهم بالعزة الناس زي كل الناس في احساس مش حماس ولا عباس لما شوفت غزة انا شوفت حالي شوفت اطفال تتيدى من اي ضلة مع الاهلي اطفال تموت وانا ابكي افتش على اولادي شوفت نسوين طلطم حضانة اختي استشهدت معلي استشهد لني شوفت اخرتي ولما شوفت المقاومة انا كنت بدي كنت بدي بس واقعي نصحني اتجه نفسي وبالنسبة إلهم صحة الحرب لعبة نينتندو شايفيننا نقط مالي إذا ما أنا رقم بعداد جثث ثقة بيعرضوها كدفاع عن النفس هل هاد غباء أم استعلاء والله مالي نفس أعبر عن رأيي بلاش يسدوا نم ديمقراطية غير محطة زعيم عربي مخطب غير الحطة اللي بيسمعني فكر إنه كان لي توقعه عشو متعشم اليوم اللي فيه زعمائنا بيبدو ياخذوا موقف ببدأ أستخدم عمان فرص لأول مرة الشعب بالشارع مخلول واقف بيتظاهر وانتوا على الكرسي قاعدين مين المشلول شو الله يساعد غزة وبكرة يساعدنا شو أقول والأطفال يابا ما حدش وقف جنبنا يا قائد العرب جاهزة يا بتعزل يا بتنجزها في فراغ سياسي ومطلوب في حل صاحب كاريزما كلنا عندهم دبابات وإحنا عنا حجار su Gerusalemme abbiamo visto anche lì come viene portata avanti appunto quella che dicevo prima, la giudaizzazione di Gerusalemme in varie maniere, sia con l'acquisto legale di case da parte dei palestinesi che, come potete immaginare, sono sempre più spinti, diciamo, sotto pressione, aggrediti verbalmente, fisicamente, e quindi, diciamo, qualcuno cede e vende anche in maniera legale la propria abitazione, oppure con l'occupazione di case mentre la gente è fuori per lavoro o all'ospedale o altre cose. E è piena di torrette di guardie private, appunto israeliane, e anzi queste guardie, ci è capitato anche di trovarne alcune guardie palestinesi che appunto fanno la guardia agli israeliani, e ci è capitato la guida ovviamente sentiva una di queste guardie armate, visibilmente armate, stavano in una di queste corti interne che ci sono nella città vecchia di Gerusalemme, che si lamentava appunto della non unità alle elezioni delle liste arabe in Israele, e questi, immaginatevi, sono i guardiani delle occupazioni, ecco, per dire. Sono ditte private, sono... Sì, sì, c'è tutto quello che chiamano un business della sicurezza, ovviamente, che appunto, cioè, tutto un business, per cui... si verifica anche che ci siano appunto gli stessi palestinesi a sorvegliare le proprie loro stessi, di fatto, sì, le proprie case occupate illegalmente. La giudaizzazione poi va di Gerusalemme si sviluppa anche in altre maniere. I luoghi santi e i luoghi turistici, questo un po' in tutti i territori palestinesi, comunque sono tutti in mano agli israeliani, fatta eccezione per la spianata delle moschee, che c'è qualche soldato giordano per vecchi accordi di cui non so l'origine, insomma. C'è il business della turistificazione e del turismo anche lì. Sì, sì, esatto. Allora, intanto ci sono gli israeliani che decidono arbitrariamente l'ingresso delle persone ai luoghi santi, ai luoghi turistici. E comunque sì, ci sono dei, per esempio, per andare alla spianata dei moschei ci sono dei tornelli e te devi passare sotto il controllo e la perquisizione degli israeliani. Oltretutto, mentre eravamo lì alla spianata delle moschee, abbiamo assistito anche a una provocazione di una dozzina di ebrei ortodossi che sono venuti a farti i selfie, le foto e a fare urla e gesti vari proprio sotto la moschea della roccia, quella blu per intendersi, ovviamente scortati dall'esercito e da guardie private, ovviamente. Ci sono degli scavi sotterranei che vanno avanti da anni, portati sempre avanti dagli israeliani, che mirano a diciamo trovare a trovare dati della natura ebraica della città eterna di Gerusalemme, e poi in generale quello che ci ha detto la guida è una gentrificazione che possiamo abbiamo notato la similitudine, se non appunto gli stessi discorsi appunto che facciamo noi su Firenze o su Venezia o su altre città dove appunto il centro storico viene spoliato della sua vita originaria, viene reso appunto un museo a cielo aperto a misura di turista, e quindi insomma questo. Siamo stati poi a Nablus è nel nord della Cisgiordania, una città, anche questa è una città vecchia, è veramente bellissima, ed è questa è famosa per aver resistito durante la seconda intifada ad un assedio durato vari mesi, ai bombardamenti delle forze israeliane, ed è una città, e si vede subito perché si entra e c'è lapidi di martiri ovunque, su tutti i muri, foto di ragazzi, appunto, insomma, è una cosa dove la lotta, insomma, e la resistenza ha lasciato segni indelebili. Come vi ho detto, dopo Nablus dovevamo andare a Sabatta, ma non abbiamo potuto perché appunto era stato ucciso un palestinese ad un checkpoint. Ovviamente la scusa, cioè, mentre eravamo lì in una settimana hanno ucciso 9 palestinesi, quindi più di uno al giorno, e 4 erano delle marce uccisi il venerdì, nella marcia del venerdì a Gaza, mentre gli altri 5 tutti ai checkpoint con la solita scusa, hanno tentato di aggredire i soldati al checkpoint con il coltello. Il giorno dopo di Nablus siamo andati a Hebron. Sì, sesto giorno. Sì. Betlemme, Valle del Giordano, Ramallah, Gerusalemme, Nablus, Hebron. Sì, sesto giorno. Hebron è una cosa forse ancora più allucinante di quello che ho detto finora, perché è una città in balia, una città di 200.000 abitanti e rotti, immaginate, in balia di 500-600 coloni religiosi invasati, che hanno colonizzato, occupato le case del centro storico, al primo piano in particolare. E quindi il centro, il souk, quindi il mercato del centro, è una città fantasma. Ci sono la gran parte dei negozi sono chiusi, le strade sono deserte, ci sono appunto soldati e checkpoint in giro appunto per queste strade frequentabili da soli ebrei. I bimbi, per andare a scuola, devono aspettare che i coloni si girino dall'altra parte, scappare e andare di corsa a scuola, infilare sotto magari il lancio di sassi o roba del genere. Fammi capire, sarebbe teoricamente una zona all'interno dell'amministrazione, una città all'interno dell'amministrazione palestinese? Sì, sarebbe all'interno dell'amministrazione palestinese, però proprio su Hebron hanno diviso la città in due zone, H1 e H2. H2, ora non ricordo, le potrei scambiare, comunque H2 è, diciamo, area A, quindi area a controllo totale, che dovrebbe essere a controllo civile e militare palestinese, mentre invece l'altra è invece zona israeliana. Allora, su questo poi ci hanno sempre detto: sì ragazzi, questa è zona A, questa è zona B, questa è zona C. La A, come ho detto, è controllo civile e poliziesco, diciamo, palestinese, la B è mista e la C è totalmente a controllo israeliano, a parte che l'area C è l'80% circa di tutta la Cisgiordania, ma comunque sia questi fanno il bello e il cattivo tempo e quando vogliono si escono, per esempio, da, come dicevo prima, dalla base militare di Betlemme, entrano nel campo di Aida di notte, li gazzano, buttano lacrimogeni, sparano un po' a casaccio, arrestano chi vogliono e poi se ne tornano e nessuno gli dice niente. E i poliziotti palestinesi si girano dall'altra parte. Tornando a Hebron, appunto, ci sono questi 500-600 coloni che hanno colonizzato, hanno occupato le case al primo piano. È quella città che vedete per esempio in alcuni documentari con le reti metalliche sopra le vie, diciamo, del centro, perché questi dal primo piano, questi coloni, tirano di tutto di sotto, dagli escrementi alle urine, all'immondizia, addirittura ci sono stati dei casi di lancio di acido, e quindi, insomma, i soldati israeliani che dovrebbero, diciamo, separare le comunità, ovviamente, cioè, a noi ci viene da ridere a dirlo, però sarebbe così, ovviamente non fanno assolutamente questa cosa. Ci sono checkpoint ovunque, quindi appunto tutti i bimbetti con lo zaino per andare a scuola aspettano fuori dal checkpoint, gli fanno aspettare quanto gli pare, allora è tutto arbitrario. Noi eravamo ovviamente con una guida, ci hanno chiesto passaporti più volte, eravamo lì si respira più tensione. Eravamo con una guida ovviamente del luogo e un soldato di 19 anni, perché tu ti interfacci solo con soldati di 19 anni praticamente, ci ha disegnato una linea immaginaria per la strada e ha detto: più di qua non potete passare. E poi l'ha anche accorciata di qualche metro così, a suo piacimento. Questa è l'arroganza che bisogna subire ad Hebron. A Hebron siamo stati alla moschea di Abramo, quella che invece gli ebrei chiamano la tomba dei patriarchi, è la moschea dove nel 94-95 un certo Goldstein, un colono di origine americana, cioè un americano insomma trasferito in Israele, entrò e sparò sulla folla in preghiera appunto alle 5 del mattino e ammazzò 25-30 palestinesi in preghiera. Appunto si vedono anche i fori dei proiettili anche dentro la moschea. E un'ultima cosa: dopo essere andati a Hebron siamo andati al villaggio di Attuani, che è ancora più a sud, e ad Attuani è un villaggio anche questo principalmente di pastori, ci va sempre un'ONG italiana, non solo, anche americana, è un paesino anche questo diciamo tristemente famoso perché c'è stata una scuola costruita, esatto. C'è stata una scuola, appunto, c'è una scuola che è stata costruita e ampliata anche negli ultimi tempi, e quindi i bambini dei villaggi più piccoli vicini devono, per andare a scuola, appunto, devono andare ad Attuani e devono percorrere una strada che passa vicino alla colonia di Avat Maon, mi sembra, sì. E questi coloni li bersagliano di pietre quotidianamente, e quindi c'è tutto la cosiddetta Operazione Colomba, che è di questa ONG italiana, ma comunque ci sono anche altre ONG nordamericane, se non sbaglio, che vanno a fare interposizione, appunto, quindi accompagnano i bimbi dai loro paesi fino alla scuola. Questa colonia oltretutto ci raccontava un ragazzo del villaggio, si rende protagonista di episodi veramente, come dire, deplorevoli, per esempio appunto vengono, si divertono a sparare sulle pecore da lontano con i fucili di precisione, a sparare appunto alle bestie dei pastori, ad avvelenarle, a metterle sotto con la macchina, insomma, vessazioni veramente di ogni tipo. Ecco, questo è il viaggio che abbiamo fatto a grandi linee, quindi un viaggio di conoscenza dove si è potuto vedere un po' varie realtà, si è potuto conoscere un po' di persone, diciamo di persone comuni, ecco, quindi pastori, contadini, gente normale, diciamo. E abbiamo però anche incontrato non tanto rappresentanti politici quanto magari delle personalità di spicco e soprattutto delle organizzazioni che fanno lavoro sui rifugiati. Finisce qui questa prima parte riguardante questo viaggio di conoscenza in Palestina. La prima parte appunto riguarda il viaggio. Appuntamento per la seconda parte lunedì prossimo. ascoltate Radio Wombat, ascoltate Senza Frontiere. Ripetiamo gli orari di Senza Frontiere: oltre appunto il lunedì alle 14 in diretta, potete riascoltarla la puntata del lunedì, il mercoledì alle 17 e il venerdì mattina alle 9. Comunque potete riascoltare tutte le puntate di Senza Frontiere, così come tutte le trasmissioni di Radio Wombat, andando alla pagina podcast del sito wombat.blogs.org/podcast. Ciao ciao, alla prossima!